Sapete perché la zanzara ha tanto successo? Perché non recitate, parlate dell'umanità, che è così. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, io non ho tempo di andare a puttane, non mi scaccolo, non rubo gli ovuli, non sono vegano, non guardo i talk show, ma questo weekend ho ascoltato il podcast di venerdì 4 volte. Ho bisogno che ricominciate, ragazzi, ricominciate. Noi ascoltatori e per la nostra salvezza discesa dall'etere e per opera di Radio 24 si è incarnato nel microfono della zanzara e si è fatto conduttore. Fu crocefisso per noi sotto i nazi legali, morì e fu sepolto, ma di nuovo verrà in diretta per la gioia di noi fedelissimi e il suo programma non avrà fine. Amen. Ragazzi, io intanto mi sono toccato proprio avidamente, toccato. Nel dubbio. Qui non è morto nessuno. Beh. Però basta con quest'idolatria, cioè arrivano troppi messaggi di questo tipo, è vero che li mandiamo in onda noi, c'è appunto un'idolatria un po' eccessiva, devo dire la verità, Però, vabbè. Allora, devo dirti la verità, a me queste discussioni... Lo so, vuoi parlare dell'Austria, lo so, no, abbiamo liberato... No. Abbiamo scampato un pericolo in Austria, scampato pericolo! Avete capito che David Parenzo è contento perché un rappresentante dei Verdi, indipendente, ha vinto in Austria contro... Non ha vinto, ha cacciato a pedate nel culo, tecnicamente, io direi. Fascisti austriaci. Van der Bellen ha mandato a pedate nel culo a casa il signore... Veramente, non è a pedate nel culo per 30.000 voti, comunque. A pedate nel culo, amico mio. È scappato come comunque, un coniglio, è tornato in Carinzia come un coniglio quell'altro. Però non voglio parlare di queste cose che interessano solo agli esperti di politica. Chi ha vinto le elezioni in Austria, a noi non ce ne frega un cazzo. Nulla. Tanto siamo come non ci frega nulla d'altra parte di queste assurde discussioni che ci sono nel nostro paese sul referendum costituzionale di ottobre, siamo ancora a maggio, cinque mesi e si parla già solo di questo, si parlerà solo di questo da qui a ottobre. Aspetta, 5 mesi e soprattutto si parla con chi stanno i partigiani, è ragazzi? È stata la Boschi a tirar fuori tutto. Ragazzi miei, di cosa stiamo parlando? Ma chi se ne frega? No, di cosa parla la Boschi? Ma no, lascia perdere, la Boschi ha detto una stronzata. Oh. Ma chi se ne frega con chi stanno i partigiani? Citazioni di gente che ormai morta, giustamente, perché la gente muore, di cui la gente non frega nulla. Quelli sono vivissimi. Berlinguer, Ingrao, chi sta con quello, quello che cita quell'altro, parlano del nulla, dello zero assoluto, dello zero. Detto questo, che parlano di cose di cui la gente non frega niente e di cui la gente non sa nulla zero, per strada. Ma non è vero. Niente, zero, total. Ragazzi, i partigiani con chi stanno? Sarà una discussione interessante. Purtroppo è stata iniziata dal ministro Boschi, la quale ha detto che i veri partigiani voteranno per la riforma Renzi, che è una puttanata anche questa. Meno male. Posto che esistano i partigiani, ormai. Ma certo che esistono, ce ne sono pochi, la maggior parte, no, quella è l'associazione. I partigiani certo veri che sono, esistono. No, i partigiani veri, quelli che hanno, vuol dire? Sono quelli che hanno combattuto sono morti. La maggior parte sono morti. Dici? La maggior parte sono morti. Ma che stai dicendo? Ma che morti? Non sono morti. Vabbè. Alcuni, il comandante Bulov, il grande Boldrini, il comandante Bulov, dai, non ci rompere i coglioni queste cose. Che aveva due palle, così il comandante faceva scappare roba i fascisti. Roba di vecchi, dai. Purtroppo è morto, ma gli altri sono vivi. Purtroppo, che vecchi. Tu sei vecchio in testa, marcio anche. Testa piena di vermi, hai, come dici così. Ampi sicuramente come direttivo nazionale ha preso una linea, no? Sì. Poi dentro Ampi ci sono molti partigiani, quelli veri, quelli che hanno combattuto la resistenza, non le generazioni successive, che votano sì alla riforma. Ragazzi, io non ne posso più, veramente parlano del nulla. I partigiani veri, i lampi. Ecco, se tu, ecco, facciamo un esperimento nei prossimi giorni. Chiedere alle persone, ma lei conosce cos'è lampi? La, certo. Io il 99% delle persone non sa un cazzo. Male. Parlano, si parlano addosso. Associazione si parlano addosso, d'Italia. Si parlano addosso. Non ne posso più di queste cose. Interessante invece, uno studente a Catania, come sapete, la settimana scorsa, sì. Ha parlato con la Boschi. Parlato. C'era un convegno. Beh, ha parlato, ha detto la sua. A parlare, no, ma che cazzo dici? Pure te veramente sei preso dalla demagogia contro visto, Renzi. È stato redarguito. Ma non è vero, magnifico. È una cazzata. Non è vero, ha parlato per sei minuti. Certo che molto ha parlato, più degli altri. Redarguito. Più degli altri per sei minuti. A un certo punto il rettore ha detto: amico mio, tocca finire l'intervento. La censura contro fai sentire il ragazzo. La gente giudica, ma fai sentire l'audio. Dai. Fai sentire l'audio, così aspetta, la gente giudica. A un certo punto ha detto questo ragazzo che si chiama Gran Cagnolo, ha detto che la Boschi stava facendo propaganda. Senti. Nel frattempo il referendum costituzionale è stato trasformato in un referendum sul Premier e lo dimostra il fatto che la campagna elettorale si è iniziata e che si è cominciato il tour all'interno anche degli Atenei italiani, il tour propagandistico. Qualche giorno fa lei ha detto che chi vota no alla riforma della Costituzione è simile a Casa Pound. Questo era un passaggio dell'intervento. Pochi secondi dopo è intervenuto il rettore, un tale Pignataro. Ma erano passati sei minuti. Cioè, questo aveva fatto un intervento lunghissimo, molto più degli altri. Senti. Lei ha parlato chiunque altro. Lei ha chiuso la parola, gliela tolgo io. Anche perché lei non può consentirsi di dire lei ha parlato abbondantemente almeno il doppio del tempo in cui hanno parlato i suoi colleghi. Non si fanno tour propagandistici negli Atenei. Questo è un incontro tra il ministro e gli studenti, quindi non era previsto alcun contraddittorio. Chi non gradisce il format può anche non partecipare. Da parte mia ha ragione il rettore, io non dico niente, senza sapere né leggere né scrivere. Ha ragione il rettore, se uno ci vuole andare ci va. Poi se ha fatto propaganda la Boschi, certo, è il ministro di un governo, non è il ministro dell'universo, è il ministro di un governo. Ma ha fatto bene il ragazzo. Sì, ma ragazzi, ma ho capito, ma non c'è nessuna censura, comunque, no. Se è questo che vuoi. Su, dai. È evidente che non c'è ma stata. Ma quale censura? Alcuna... Ma ora ho detto, voglio dire, non c'è stata. Ma dov'è il ministro che comunque, di fronte ad una platea di insegnanti segue per sei minuti l'intervento di uno che gli dice che praticamente è una fascista. Un momento, parlate di università, non sapete nulla, 18:42. Nelle università una volta i ministri non entravano per paura, amico mio. E o se entravano uscivano senza la giacca e la cravatta, scappavano conigli. Sono passati quel del giovanotto tempo. Mi pare non abbia capito nulla, cioè, ha tirato neanche una sassa, stai zitto. Non ha tirato neanche un misero fumogeno, un fumogeno di colore rosso, di quelli che annebbiano completamente la sala. Vabbè, e costringono la gente a uscire. I fumogeni una volta avevano questa straordinaria funzione di creare questa cortina di fumo. Vabbè. In cui nel parapiglia ci scappava anche qualche cazzotto e qualche adorabile schiaffone al potere. Meno male politico. È finito quel tempo. Questo giovanotto mi pare un povero miserabile, un uomo che assolutamente un debole, capito, un debole, un debolissimo, non ha capito. Timidamente ha alzato il dito, posso interloquire. Doveva saltare sulla cattedra, mandare a fare in culo, prendere possesso dell'aula, chiamare il Katanga all'interno della stanza e far scappare come un coniglio quella cosiddetta ministra. Questo sarebbe stato straordinario, formidabile in quegli anni, lezioni di Mario Capanna. Allora ragazzi, naturalmente è intervenuto anche il signor Fedez. Adesso io, va bene tutto, per carità, ognuno ha il rapper. Sì, nella vita ognuno dice quello che vuole. Interviene Mauro D'Amato, non può intervenire Fedez. Sì, no, ma infatti non dico niente. Fedez, tu dai lo stesso valore a Mauro D'Amato e a Fedez. No, per carità. Ammetterai che Fedez ha qualcosa in più da dire rispetto a Mauro D'Amato. Questo non credo, uguale. Nella per me pari sono. Per me pari, non c'è nessuna gerarchia, pari sono. Fedez che dice la sua. Ovviamente passa la vulgata che c'è stata la censura nei confronti di questo ragazzo dell'università. È veramente, ragazzi, a me non me ne frega un cazzo di Renzi, non ho nulla a che fare con Renzi, nulla a che fare con Renzi. Non sono uno, nemmeno Parenzo, un tifoso di Renzi, no. Però pensare che ci sia la censura contro questo ragazzo che ha parlato di fronte al ministro per sei minuti e le ha potuto dire che è una riforma fascista, pericolosa. Ma di cosa stiamo parlando? Del nulla assoluto. Fedez è un altro che s'accoda alla cosa, alla propaganda, il servilismo, se la piglia correttore, senti Fedez. Un giovane e a mio parere coraggioso studente universitario che viene zittito dal suo rettore facendo sfoggio di un servilismo propagandista che l'ho trasformato nell'Emilio Fede del ministro Boschi. L'Emilio Fede del ministro Boschi al rettore. Hanno cercato di ammutolire chi ha un'idea di... Ha parlato per 6 minuti! Fedez, sveglia! 6 minuti ha parlato! Questo qua, di fronte al ministro, 6 minuti! Zittire cosa? Non dire cazzate! Chi è al vertice della pubblica istruzione dovrebbe insegnarci qualcosa, perlomeno. E l'unica lezione che hanno dato in questi giorni è cercare di ammutolire chi ha un pensiero scomodo o divergente. Che si tratti di due cantanti del cazzo o di uno studente con i controcoglioni, a cui voglio fare i miei complimenti, perché davvero vorrei essere preparato quanto sei tu e hai veramente spaccato. Ragazzi, veramente, guarda, cioè, a me non me ne frega nulla, né, ripeto, né di Renzi né della riforma costituzionale, cioè non sono particolarmente a favore, non lo so manco come voterò, mi devo informare, non mi interessa. Ma pensare che ci sia una censura perché questo ragazzo dopo 6 minuti, e dico 6 minuti, interviene il rettore per dire: senti, però amico mio, adesso basta, è veramente una cosa. Questi vorrebbero l'anarchia. Cioè uno parla per 20 minuti contro in un'assemblea, dai ragazzi. Il problema della zanzara, il traffico. La zanzara. Cruciani, quando dici Don Livio Fanzaga, tu mi ecciti. Altra cosa incredibile, a Roma la Meloni propone di intitolare una via Giorgio Almirante. Ora, la cosa non è... Che fai? Una pernacchia? Che fai? No, ho fatto... Beh, appunto, cioè, che hai fatto? Una pernacchia? Una pernacchia è... E che hai fatto? Uno sbuffo con pernacchia. Uno sbuffo, cioè, non ti piace l'idea che nella tua città ci sia una via intitolata Almirante? Ma chi devi scherzare? Via! Via Almirante! Vabbè, via Giorgio Almirante, che male c'è? Dai, su! Ci sono tante persone controverse che hanno via. Vabbè, allora. Anche Napoleone, anche c'è Foro Bonaparte qui a Milano. Bonaparte, c'è Bonaparte. Non è una persona controversa nella storia dell'umanità. Intitolatela anche, dai. A chi? Intitolatela a chi? Bottai. Lascia perdere. Del fascismo, come si chiamava? Infatti non ci sono. Poi via Grandi. Ma lascia perdere. Cos'è quell'altra lì? L'altro, no, ma dilla tutta. Di quello che mi hai detto fuori onda. Intitolata pure a chi? Al Canaro? A chi? Dimmelo quello che hai detto Canaro, fuori onda. Chi è il Canaro? Ma no. Intitolatela a qualche altro gerarca fascista. Lui ha fatto ma non parte. Hai il coraggio di dirmi quello che mi hai detto. Ma no, ma che intitolatela ad un altro criminale. Dai. Ma lui ha fatto parte della Repubblica Sociale Italiana. Vabbè, la Meloni. Sentiamo la Meloni. Dai, sentiamo autore la Meloni. Della difesa della razza. Oh. Il 22 maggio ricorre l'anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante e io sono qui per dire che quando sarò eletta sindaco uno degli impegni che mi prendo è quello di intitolare una strada di Roma a un uomo che è stato fondamentale nella storia della destra italiana e nella storia della politica italiana. Bisogna dire che è una cosa fondamentale per Roma questa cosa qua. Cioè, soprattutto tutti. In campagna elettorale. Aspettano tutti di stare in via Almirante. Guarda, io mi trasferirei. Ogni tanto si rifà viva la signora Martani, che magari ospiteremo perché in campagna elettorale è candidata per i Verdi, sapete, la super vegana, no? E io non voglio mai portare nessuno in tribunale, però mi ha praticamente, e non succederà nemmeno in questo caso, però praticamente dice che sono il mandante della strage degli animali che c'è stata a Spinea, in un posto che è SOS Natura, non mi ricordo dove, dove porcellini d'India sono stati uccisi a calci, calpestati, le galline anatre decapitate, coniglietti ammazzati a bastonate, un centinaio di animali sterminati, non si capisce bene da chi ancora, potrebbero essere stati addirittura i satanisti, non si capisce bene da chi. Allora, è ovvio che il sottoscritto, pur essendo contro gli, non gli animalisti, gli animalati, non gli animalisti, gli animalati, perché molti sono malati, non animalisti, sono malati. Pur essendo contro molti animalati, è contrario all'uccisione degli animali. Ma di che stiamo parlando? Non ho mai sostenuto e mai sosterrò che è normale e giusto uccidere gli animali, soprattutto in un modo come questo. Ma la signora Martani, sai cosa scrive questa deficiente assoluta? Io posso, ma deficiente per quello che scrive, eh? Non deficiente lei di suo, deficiente per quello che scrive. Cioè tu dici mancante, no, dal latino, ma deficio, mi ha dato del mandante, sì, mi ha dato del mandante di questa specie come di strage degli animali. Il Renato Curcio dei macellai. Esatto, il Renato Curcio degli assassini degli animali. Sì. Beh, scrive. Questo, beh, è ideologo, il sì, l'ideologo degli assassini, però. Non beh, de... questo può anche essere. Ma vai però, a fare no, il non culo ti piace, te, dai. Non ti piace. Ma assolutamente no. L'ideologo degli assassini, no, della carne. Eh no, francamente no. Queste, beh, no, queste le conseguenze. Scrive delle campagne di odio contro gli animalisti messe in atto da Cruciani e C. Mette beh, in mezzo pure te, tra l'altro. Sai te, sicuramente. Cruciani e C sarai anche te. Cioè, non quindi è che qui, io non è sono che Franceschini, quindi. Tu sei tu sei Curci, io sono Franceschini. No, come funziona? Cioè, praticamente l'uccisione di questi animali, di questi 100 animali, che non si sa perché sono stati uccisi, e io condanno assolutamente l'uccisione di questi animali. Beh, certo. Sarebbero state praticamente il frutto delle mie campagne, delle, secondo lei, di queste mie campagne di odio contro gli animalisti. Ma vai a fare in culo, dai. Guido da Catania, iniziamo le danze, prime numeri di telefono, eh? Numbers. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Guido. Sì, sono qui. No, niente, io ho sentito all'inizio della trasmissione che lei ha dato delle, come ha detto che la Boschi ha detto una stronzata. Ma io non penso che abbia detto una stronzata. Enorme, enorme, pensi... i veri partigiani non, non significa nulla. Se tu mi fai spiegare. Dimmi, dimmi. In pratica stiamo parlando di chi? Di chi? Di uno che è stato vicepresidente del CSM. Ma di chi? Di chi stiamo parlando? Guarda. Il portavoce dell'AMPI, che, di chi sì, stiamo ma non parlando? Lo so, amico mio, guarda, a me queste discussioni su personaggi, su, queste, su personaggi ascolta, sconosciuti non mi interessa. Ha detto una cosa sbagliata, lo... ha detto una cosa sbagliata. Questo personaggio sconosciuto ha detto che l'AMPI voterà no. E va bene, d'accordo. Lui ha parlato a titolo personale, perché non è neanche un partigiano. Lui sì, è ma solo siamo... un ex vicepresidente ognuno, del CSM, ma ognuno può dire il portavoce. Ma ognuno può dire quello che vuole, Guido. Io concordo con quello che ha detto Renzi. Ci cioè sono che partigiani cosa? Che voteranno sì e partigiani che appunto, voteranno per cui no. Dire, dire ma che ex partigiani. Sì, ma dire ma che lui voleva dire che quello lì che sto parlando non è un vero partigiano. No, ho capito. Ma ragazzi, ma vi rendete conto del livello di discussione? Cioè, sono discutere, te, ma discutere tu, ma... su chi su come votano cosa i partigiani. Cosa gli frega il governo? Cosa non gli frega il governo se è un'associazione Cruciani, o un'altra decide di votare o no? Non l'ha capito. Cruciani, c'è una campagna elettorale. È cominciata la campagna elettorale per il referendum. Sì, no, ma ho capito benissimo. Ogni, come diciamo da questa carpi, ogni, ogni, ogni, non posso dirlo, ma è dillo, Guido, Guido. Ogni spirito piccolino che esce spirito. Da qualche parte fa notizia. Ma abbiamo detto di peggio qui, ogni spirito piccolino ti vergogna a dirlo qui alla Zanzara, che sei impazzito. No, beh, ciao, ciao, Giancarlo Siena, vai, Giancarlo. Sì, ciao, abbasso il tenore della discussione, volevo sapere se Parenzo c'ha la patente. Sì, l'ha presa da poco. Un anno fa, febbraio. Da poco. Più di un anno fa. Lui ha dichiarato che è un reato uccidere con la macchina un povero cinghiale o un povero capriolo. Diciamo, se uno lo fa apposta, in teoria sì, in teoria. È un c'è il codice penale, vecchio mio. Questi animali sono causa di incidenti anche mortali. Sì, anche, ma se uno va apposta ad uccidere organizzando anche delle gite o delle gare, è diverso. Ma no, ma certo. Detto questo, a me non me ne frega niente, perché? Possono fare quello che vogliono. No, cioè. Ma ci devono andare, vanno premiati. Perché ecco un altro. I cacciatori che uccidono mediamente dai 500 agli 800 capi a stagione sì. Non ce la fanno a smaltire questi animali che creano danni incalcolabili. Sì, ma tu stai parlando di un'altra cosa, i cinghiali, esatto, eccetera, sì. Eccetera. No, cinghiali, daini, caprioli. Ho capito. Bisogna ucciderli. Ma non è che uno può armarsi all'improvviso così e autonomamente andare in giro a ammazzare caprioli, non si può fare questa no, cosa scusa, qua. No, scusa, ma questi vanno per strada, Ah, ma se uno si trova per strada, li mette sotto, pazienza, chi se ne frega. Certo, no, e fanno bene. Aspetta, Alberto da Roma, ciao Giancarlo, Alberto, vai. Sì, pronto, eccomi. Dimmi, dimmi Alberto. Io abbasso ancora il tono della... No, non devi abbassare, qui non c'è né alto né basso, c'è sia alto che basso, a seconda di quello che pensate voi. Non ricordo, Parenzo, quando stavate parlando della Schiano e della De Maio... Sì, però aspetta, amico mio, aspetta, c'è tempo, un momento, aspetta un attimo. traffico, pubblicità, tutte stronzate. Adesso ci rubate 5 minuti, chiudete sempre 5 minuti prima. Siete degli stronzi. Allora mettete anche i numeri del lotto, no? E vaffanculo. Che stro. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Personalissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. La Zanzara. Lunedì mattina vedo girarsi nei corridoi dell'ufficio colleghi in formato zombie. Io sono pimpantissimo perché lunedì ricomincia la zanzara. Anche a Bora Bora, polinese francese, si ascolta la diretta della zanzara. Solo che qui andate in onda di mattina. Ma non me ne frega un cazzo, io mi sveglio, perché non vivo senza zanzara. Ragazzi, qui è pieno di premi Nobel mancati, eh? Iniziamo da Brunetta sì. Che ripete sempre a Pappagallo la questione del premio Nobel mancato. Ogni tanto, quando li nominano Renzi, dice: sì. Io sono stato com'è che fa Brunetta? Candidato al Nobel, Nobel non per la pace, per l'economia, con Stiglitz. Tu sei intanto un cretino per definizione, cretino, ignorante, studiare, studi poco, sei un cretino, fai la radio, sì. Mandi il traffico, il meteo, dici cazzate, Mauro da Mantova. Io il Nobel, io te lo acquisto con i più grandi, sì, capi di stati di governo. Abbiamo capito, però Nobel mancato. Adesso chi lo dice che è Nobel mancato? E lo dico io. E chi lo deve dire? No, ho capito, ma non c'è una classifica dei Nobel mancati. C'è una classifica. Ma c'era, non c'è, non nome, è vero. C'era scritto nella, Renato, c'era scritto in Svezia, a Stoccolma, non so neanche dove, in Norvegia. C'era scritto Renato Brunetta. Poi a un certo punto hanno cambiato il nome. Ma non è vero. I comunisti hanno messo un tratto sopra. I comunisti sono stati D'Alema, è andato lì. E ha cancellato il nome. E ha cancellato il nome perché Tremonti è andato lì e ha detto: no, Brunetta non lo volete. L'hanno tolto Brunetta. Ma Renato è sempre stato nella rosa, cioè, dei nomi. Complotto contro Tremonti, per non farti vincere D'Alema. Il Nobel. Ma stai zitto che non sai, studia. E io ho fatto lo studio di diritti lavoratori con Brodolini e abbiamo scritto Brunetta, c'era scritto Renato, proprio scritto grande, a carattere 43, c'era scritto Renato Brunetta, Nobel per l'economia, e quindi la curva de Verger, e voi non sapete niente. Avete su questo semplice... è su, che noi non sappiamo niente, nulla, questo è sicuro. Nulla, cretini. A ottobre tornerà a fare il disoccupato, non ha mai lavorato in vita sua. Lei vuol mettere tra un Nobel mancato, insomma ci sono arrivato vicino, e uno disoccupato che ha sempre fatto della politica il suo unico mestiere. Scusa adesso, perché va bene tutto, ma dove è rintracciabile questa cosa che è andato vicino al premio Nobel? Renato, ma non è vero, non è, cioè non è vai, che... in Svezia. Vai in Svezia, cioè, un altro aspetta, e vai in Svezia. Un altro Nobel mancato è il professore Antinori. Ti giuro, sì, professore Antinori, certo. Secondo Taormina, senti. Sì. No, ma proprio anche che in un periodo. Dove l'ha quello, detto? Credo dalla D'Urso, no, mattino 5 stamattina. Professor Taormina sostiene che Antinori è un premio Nobel mancato. Ma certo. Candidato, anzi, al premio Nobel. Candidato. Abbiamo le carte. In realtà sono quasi tutti candidati al premio Nobel. Cioè, se noi ci candidiamo al premio Nobel, che ne so, della. Della radio sicuro, va bene, al premio Nobel del, che ne so, del cazzeggio, al premio Nobel, beh, della, quello, non lo so, quello, al premio Nobel del, di cosa? Del non lo so, ma sì, ma probabilmente possiamo entrare in una rosa, no? Cioè in una rosa possiamo entrare. Sì, ma. Sì, dai. Non lo so. La pace forse, la pace? La pace. No, lo sai di che cosa, secondo me? La pace. Della libertà. la libertà. Premio Nobel per la perché libertà, sì. L'idea della marcia dei puttanieri, che voglio qui rivendicare, sì, anche in parte rilanciare. Che io non appoggio, ovviamente. No, non appoggi tu, ma la promuovo io. Sì. Cioè, metà Zanzara approva questa cosa e metà la ripudia. Sì, esatto, esatto. L'idea della marcia dei puttanieri, cioè di una grande marcia nazionale, è come la marcia dei 40.000, dei puttanieri, sì, diverso, cioè però, coloro che in un modo o nell'altro hanno a che fare, sono favorevoli alla prostituzione, che frequentano, frequenteranno, che vogliono, sono favorevoli alla frequentazione dei bordelli, dovrebbero scendere in piazza contro il nuovo bigottismo che attanaglia l'Italia. Questi sindaci del cazzo, questi sindaci di merda che nelle città italiane vogliono proibire alla gente di andare a puttane mettendo multe assurde. Multe, multe salatissime. E spedendole anche a casa. E facendo delle foto e metterle nella città, delle mega foto di chi va a prostituta. Non va bene, non va bene, non va bene. Taormina. Che sia un grande scienziato, non c'è ombra di dubbio, è stato candidato al premio Nobel, lo ricordo solo perché qualcuno di noi forse se lo è dimenticato. Ma veramente anche qui, candidato sì, ma certo, ma basto io per candidare Antinori. Se la Zanzara candida o un gruppo di cittadini Antinori al premio Nobel, è candidato, ma che cazzo vuol dire che è candidato al premio Nobel? Non vuol dire nulla, niente. Lo sai che ho pensato per tutta... Guarda, è molto grave quello che hai detto, molto grave, gravissimo. No, è candidato, abbiamo le carte, abbiamo tu. Hai fatto una grave diffamazione aggravata, ci vediamo in tribunale. La cosa meravigliosa di Trump, che nei sondaggi stiamo arrivando, Parenzo! Stiamo arrivando! C'è poco da ridere. Stiamo arrivando! Signora Clinton, stiamo arrivando, noi sostenitori italici dell'uomo col parrucchino, dell'uomo con i capelli davanti, biondi, stiamo arrivando, ci stiamo vicini, alla vittoria. Beh, aspetta, ancora guarda, manca un sacco per di tempo. Per fortuna manca. Trump dice, gli insegnanti dovrebbero avere i fucili. È un pazzo scatenato, dai. Mio, stupendo, senti. Pazzo. I don't want to have guns in classrooms, although in some cases teachers should have guns in classrooms, frankly, because teachers are, you know, things that are going on in our schools are unbelievable. You look at some of our schools, unbelievable what's going on. Unbelievable what's going on. Unbelievable. Cioè, ha detto in sostanza, lo posso capire anch'io nel mio umile e inesistente inglese, che qualche volta gli insegnanti hanno bisogno, in alcuni casi, di avere i fucili a portata di mano. È un pazzo scatenato, finanziato dalla lobby delle armi. Un tutto trasparente, tutto trasparente, tutto chiaro, tutto trasparente, eccetera, eccetera. Certo, finanziato dalla lobby delle armi, perché ti vergogni? Una persona vergognosa. Ti vergogni proprio in Italia che esiste un signor Beretta, per esempio? No, non ti vergogni, quello, allora. No, di quello finanza, no, che c'entra. Se finanziassi in maniera aperta, come magari fa alcuni partiti, sarebbe tutto più chiaro. Sì, ma io avrò il diritto di dire più che se uno c'ha dietro la lobby tutti, delle armi, più fucili non ha per la tutti mia simpatia, però poco vabbè, male. D'accordo. Non ha la mia, ma quella di altri. Oh, ragazzi. Tanto ho scoperto, bisogna che qualcuno ci pensi anche in Italia, caro Parenzo, che esiste, bisogna brevettarlo in Italia, una cosa meravigliosa. Aiuto. No, ma è una cosa fantastica. Aiuto. Si chiama The Gun Bed, praticamente. C'è un letto, ti giuro, un letto meraviglioso, andate a vederlo, The Gun Bed. Un letto che ha una, dietro, come si chiama la roba dietro? Lo schienale, no? Del letto, sì, il legno. Da dove esce in due secondi con una cosa, un fucile. Cioè è fatto apposta. Ma cosa serve questo? È fatto apposta perché tu ti addormenti con il fucile praticamente incorporato. Bisogna darlo a stacchio questo, Beh, stupendo, dire. Stupendo. The Gun Bed. Ma dove vivete? Il del letto Far West? Col fucile, bellissimo. E poi cosa mangiate? Fagioli? Se tu leggi sera la pubblicità online di The Gun Bed, cioè il letto con il fucile, ti entusiasmi di che paese può essere l'America. Ma dove vivi? In Texas o a Milano, zona fiera, vecchio stupendo, mio? Ma dove stupendo, vivi? Stupendo. Allora, eravamo con Alberto da Roma, vai Alberto. Sì, eccomi, certo è duro fare un intervento dopo la marcia dei puttanieri e le altre amenità. Che amenità? Che una cosa serissima, altro che amenità. È serissima. La di Parenzo della scorsa settimana che ha affermato che in Israele, quando stavate commentando la De Maio e Schiano, in Israele non ci sono bambini detenuti. Ora, in carcere, bambini israeliani, bambini palestinesi in carcere. Vabbè, in carcere. Non ci sono, parte, ci sono. Però, a meno che l'UNICEF non sia una pericolosissima organizzazione antisionista, che a questo punto bisognerebbe chiuderla domani, e senza entrare nel merito delle affermazioni di quella pazza era Di Maio, della Schiano, veramente no comment, però il 14 maggio l'UNICEF tira fuori un bel rapportino di quest'anno che dice che solo negli ultimi tre mesi del 2015 Le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso 25 minori, ne hanno feriti 1300 e ci sono attualmente 422 bambini tra i 12 e i 17 anni. Non c'è nelle da parte di Israele la volontà di uccidere un bambino palestinese. Nessuna volontà. No, Alberto, non sta dicendo questo. Io sto dicendo una cosa diversa. Alberto sta dicendo La realtà è molto complessa. La realtà è che mentre dall'altra parte, mentre da parte di Hamas non sono bambini, mentre dalla parte di Hamas c'è la volontà di uccidere i civili, io dico questo, la differenza è esattamente questa. No, però Alberto sta dicendo una bambini in galera. Ma perché queste cose? Perché dire no, ci sono bambini in galera, perché lì il concetto io ho affermato oltre a questo un altro principio, che non c'è la volontà da parte di Israele di uccidere i bambini, mentre da parte di Hamas, che peraltro è al governo, c'è la volontà di uccidere i civili. Questa è l'unica differenza. Chiara da Milano, Alberto, è tutto chiaro. Chiara da Milano, vai, Chiara. Sì, ciao, ciao. Dimmi Chiara, dimmi. Senti, io volevo soltanto dire una cosa. Dimmi. Io sana di mente non lo sono mai stata. E vabbè, quello però qua sei in buona compagnia, amica mia. Mi hanno sempre dato della malata di mente, vabbè, lo davano anche ad Aldamerini, per cui mi consola il fatto. Comunque, quando chiama qualcuno e dice io ho investito un animale e poi con mia nonna me lo sono mangiato, ma è normale una persona che si comporta così? C'è un minimo di sensibilità, voglio dire, cioè dopo tutto hai ammazzato un animale. Ammazzato un animale con la macchina, investendo. Magari non volontariamente, per carità di Dio, non dico. Ho capito, se uno non ammazza volontariamente ti può dispiacere quanto vuoi, però che deve fare? Uno si deve ammazzare. Non mangiarlo, dai Giuseppe, mangiare un animale, cioè tu mangi un animale sapendo di averlo ammazzato. Ma non c'è niente di male, anzi, al contrario, molti animalisti dicono, allora perché non andate a cacciare gli animali? Perché io non sono animalista. Vabbè, allora, che cosa hai chiamato a fare? Non ho capito. No, per dire, cioè, a me sembra assurdo che una persona che investe un animale poi se lo mangia, magari anche involontariamente, e poi se lo mangia. È successo, in alcuni casi succede, come ci ha raccontato quell'ascoltatore la settimana scorsa dalla Sardegna, eccetera eccetera. Nessun dramma, fermi tutti. Oh, pare, te lo dico in barese, te tengo sopo cazzo. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. La marcia dei puttanieri, grandissimissima idea, grande Crux! Cruciani con la sua marcia dei puttanieri ha dato un nuovo significato al vecchio e antico puttantur. Sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda la marcia dei puttanieri e voglio proporre questo slogan: voi ci mettete la figa, noi ci mettiamo la faccia. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora ragazzi, continua la disfida intanto, fantastici messaggi di prima, grazie del sostegno, siamo Branco qui col maiale, popolo vero, ma lascia Branco perdere maiale, adesso chi va a puttane è un maiale, dai. Solo sicuro. Tu puoi pensare a una cosa del genere, sicuro, ma dai, allora, ma lo dico proprio la gente vera, normale, che no, ogni tanto si permette, si toglie qualche sfizio, la gente vera che va a prostitute, questo non credo proprio, ma insomma non importa. Comunque ragazzi, continua la disfida tra Mario Giordano e Giampiero Mughini. Tutto è iniziato alla gabbia, poi qui si è rinfocolata la vicenda. Aspetta, fammi andare per ordine, se no la gente non capisce, dice di chi parliamo. Parlando di Mario Giordano, direttore di TG4, e Giampiero Mughini, editorialista, giornalista, lo sapete, eccetera eccetera. Giordano, almeno leggi 5.000 euro lordi e recupera 2 miliardi, che sono esattamente quelli che vanno... 5.000 euro lordi sono 2.500 euro lordi, cioè, ma non sono tagliati... Sono ma di che stai parlando? Sì, ma Mughini, Mughini, si tratta di ricalcolarli in base ai contributi versati, non di dimezzarli, non di dimezzarli, Mughini, leggi almeno, impara non prima di parlare di cose che non sai, se no parla di Juventus, te la conosci bene la Juventus, ma non parlando. Parlare di cose che non sai. Quel signore che prende 90.000 euro al mese finalmente ma dai, non le prenderà più sciocchezze. Se Dio vuole saranno quello tre succede. Persone che quello guadagnano succede. 90.000 euro allora, rientriamo. Ma quali sciocchezze vai dicendo? Mughini, almeno leggi. Ma quali sciocchezze vai dicendo? Tre persone guadagnano 90.000 euro. Parla di cose allora, che sai. Scusami. Parla Madonna di cose della Juve. Allora, li conosco. Calmiamoci un attimo. Madonna Oliviero, mia. Aiutami, aspettate. Allora, io ti aiuto euro se al mese, posso. Ma chi li prende? Allora, come avete capito, si stava parlando di pensioni e delle pensioni, diciamo, ricche. Le pensioni ricche. E Giordano pensa una cosa, Mughini ne pensa un'altra. Mughini, la zanzara qualche giorno dopo. Ma ti risulta o no che Mario Giordano sì, è un giornalista da 20 anni a busta paga del capo del governo italiano? Ti risulta sì, o no? Sì, sì, assolutamente. Ti risulta o no che è un direttore di telegiornali che fanno una campagna per l'ex capo del governo? Ti risulta o no che questo cialtrone stava facendo della demagogia, o no? Dire che togliendo alle pensioni da 5.000 euro lordi si risolve chissà che cosa, è una cialtronata demagogica. Questa cialtronata demagogica, cialtronata demagogica per sollevare l'applauso dei babbei, è indegna di un giornalista. È indegna di un giornalista. Io ripeto, perché non ero lì a Milano, se no lo prendevo a calci in culo e gli facevo fare il giro del quartiere. A calci in culo gli facevo fare il giro del quartiere. E a calci in culo il giro del quartiere. Poi lo conosco, Giordano, dai, è un piccolo uomo. Ecco qui. Allora, sì, cosa è successo? È stato non leggerissimo. Non lo so, non giudico. Cosa, ma è normale. Uno, quell'altro dice che può parlare solo di Juventus, l'altro gli dice che è un cialtrone che ha il soldo di Berlusconi. Ho capito, cioè, voglio dire... Siamo sullo stesso punto. Cruciani, arbiter. No, terzo, arbitro, da in questo sempre, caso sì. Da sempre in questo caso sì. Terzo, la cosa che mi fa rodere il culo, Mario Giordano è un amico, nel weekend ha scritto una roba per Libero, però sparando delle cazzate su di noi assurde. Allora, uno, Mughini non si è fatto ospitare. Non si è fatto ospitare chi? Lo abbiamo chiamato noi per parlare, tra l'altro, di altre cose. Poi a un certo punto mi è venuta in mente la litigata con Giordano e ho messo l'audio. Mughini è partito in quarta contro Giordano. Noi abbiamo raccolto il suo sfogo. E da noi il confronto non esiste. Non è che mettiamo uno contro l'altro. È un altro format, non c'entra assolutamente nulla. Per cui, di che stiamo parlando? Confronto che peraltro Mughini ha reclamato e continua a reclamare. Poi dice... No, due discoli ormai alla ricerca di qualsiasi pretesto, per quanto poco nobile, pur di far parlare di loro. Ma di che stiamo parlando? Ma se vuole Giordano venire qui, può venire. Ma sì, ma può venire quanto vuole. Non cerchiamo qualsiasi pretesto perché non abbiamo bisogno di notorietà. Già la possediamo, come Giordano d'altra parte. È come se io dicessi no, che Giordano va alla gabbia per farsi notare. Non lo direi, no, non me ne frega niente. Che c'entra, è la stessa cosa. Cioè, infatti no, non lo dico. Infatti non lo dico. Poi dire due discoli è come dire vabbè siete due coglioni, no? Cosa possibile? Ma questo non è cosa, offensivo. No, ma cosa possibile? Potremmo anche essere due coglioni, eccetera. Beh, bisogna vedere questo, quanti siamo però. Questo no. Cioè in quanti siamo della partita coglioni, eh? Cioè non è che... Può darsi anche che sia vero che siamo due coglioni. Due discoli, no, sì, due coglioni. Discoletti, dai, discoli. Sì, ma è come dire, no, a due che fanno la radio, vabbè, quelli là sono dei coglioni. Ma va bene, bisogna vedere però quanti siamo tra i coglioni. Va bene, Cosimo da Roma, vai, Cosimo. Una sera, è dimmi, chiaro che per essere coglioni bisogna essere sempre pari, perché se dite, bisogna non sì, essere in coppia in genere. Comunque sì, io devo dire una cosa importante. Sì. Dimmi una cosa importante, Cosimo, dimmi. Che per me non sei neutrale. Su che, come io non sono mai neutrale. Tu parti dal presupposto che un ragazzo di 22 anni parla 6 minuti e siamo in anarchia, è ridicolo. No, ma io non ho detto questo. Stanno 23 io ho detto... ore a massacrarci. No, scusami però, amico io mio. Io me la so sentita 20 volte quella registrazione. Innanzitutto siamo all'Università di Catania. si organizza una cosa in cui c'è ospite il ministro Boschi. Non so se sia propaganda per il referendum, mi sembra presto per fare propaganda, però ma un rettore ma quello non la deve manco chiamare la Boschi. Vabbè, ma quello è un altro discorso, quello può darsi, i ragazzi dalla Boschi non imparano nulla, può darsi che quello tu abbia ragione, ma non, papà, è ma non è obbligatorio andarci, c'è un papà denunciato per fallimento fraudolento. Vabbè, quello però non è colpa della Boschi, se è denunciato il padre. Beh, ma se io fossi il figlio di uno con le condizioni, prima di tutto cercherei di fare la persona per bene e mi starei un angoletto. Ma quello è un altro discorso, però sempre... Cosimo, quello è un altro discorso, però non c'entra niente. Qui siamo in presenza di un ministro per le riforme che va all'interno di un'università, sì, dove parla del più e del meno, delle riforme. No, parla del più a favore del PD. Non parla, vabbè, del PD, non è che non è ministro del Bubù, è ministro del PD. Ci abbiamo un presidente merito. Non è obbligatorio, sì, però non è obbligatorio andare. Comunque, è anche vero quel che dice Cosimo: che se fosse andato in un'università un ministro del governo Berlusconi, sicuramente ci sarebbe stata una bella canea, anzi c'è stata quando i ministri del governo Berlusconi venivano invitati. Sì. Quindi c'ha ragione Boschi, Cosimo, su questo. Boschi o Berlusconi sono le stesse persone. Adesso un ministro non può andare all'università, ragazzi, non diciamo cazzate, dai, su. È figlio di Renzi. Qui stiamo mescolando le carte. Però scusami Cosimo, io non ho capito qual è il punto. Il questo punto ragazzo ha avuto tutta la possibilità di parlare. Cioè, noi non abbiamo voce. Ma non è parla vero. Ragazzo, vai a votare, no. E vai tu a te ne esci dicendo che un altro po' la dittatura al contrario. Ma scusami, abbia pazienza. Questo qua parla per sei minuti davanti a un ministro. Gli dice che praticamente quella è una mezza fascista che vuole distruggere la democrazia. Ma non so, mai sentito che ha detto dei partigiani? Ho capito. Ma ho capito. Che poi si mangiano le parole. No, ma sono d'accordo con te, ma quello è un altro discorso. Però dopo non dici il contrario di quello allora, che hai qualche detto coglione, prima, qualche coglione, farlo? Grazie Cosimo, qualche coglione mi ha scritto si vede che c'è un nuovo presidente di Confindustria e siete a favore del referendum. Guarda amico mio, capiti ma male, se non abbiamo detto nulla capiti male a noi in questo momento non ce ne frega un cazzo. No, ci interessa molto e dedicheremo delle puntate con l'aiuto di Massimo Esperti. Come no? No, con Zagrebelsky, ma questo con tanti lo farai tu nelle tue cose. Io dico semplicemente una cosa, io dico solo una cosa. A noi non ce ne frega nulla, Renzi, non Renzi, eccetera. Noi analizziamo quello che succede. Secondo me, in questo caso, non si può parlare di censura nei confronti di questo ragazzo. Punto e basta, dai. Marcello da Roma, via. Marcello. Buonasera, buonasera. Dimmi, eccoci dimmi. Qua. Favorevolissimo alla via intitolata Giorgio Almirante. Vabbè. Perché? Perché è stato un uomo politico democratico. Sì. Come secondo l'altra parte c'è anche Palmiro Togliatti che secondo il mio punto di vista è guarda stato... siccome ci sono un sacco di vie intitolate io non mi scandalizzerei ovviamente per... che c'è Parenzo che fai fischietti che fai no prego prego per non arrabbiarmi vabbè, fischio, ma ragazzi su però adesso la via d'Almirante non è un problema no, l'ha proposto problema, la Meloni non è mai un problema non è mai un problema per te. Non niente mi pare uno un scandalo via una via Giorgio Almirante uno scandalo non mi pare, uno Togliatti, scandalo Togliatti ha fatto le peggio cose ci sono vie intitolate intere vie intitolate Giovanotto che conduce questo programma Giovanotto ehi mi sono diventato dimenticato di dirti una cosa come disse il grande Giacinto detto Marco allora... devi sapere che il signor Togliatti ha firmato la Costituzione ma cosa cazzo c'entra? Ecco quindi è quello che l'ha scritta materialmente non c'entra nulla con Almirante Oddio mio il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti se veramente vogliamo che in Italia ci sia vuoi, e dimmi. Sia viva in tutti la coscienza della razza vado avanti cosa? Il razzismo nostro deve essere quello del sangue scorre nelle mie vene come un sacco che io italiani. Sento rifluire in me posso vedere analizzare vabbè, confrontare Giuseppe dalla provincia di Bari il razzismo nostro questo scriveva Almirante 5 maggio 1942 Marcello, via che nel senso di via non della via Almirante via via Giuseppe provincia di Bari dai ecco lui così risponde. Giuseppe dimmi pronto dimmi Giuseppe dimmi e niente il parente vuol fare lo storico sì. Ma non no no ne è arrivato chi è lui arrivato non qua? Sa, lui è arrivato no, De Felice non... è arrivato, oh, è arrivato De Felice dimmi parla ancora con sto De Felice ragazzi allora, dai parliamo di cose normali strade, dai forza ci sono strade intitolate a partigiani che ancora. Hanno trucidato i preti che truci, quando c'era già l'armistizio caro Parenzo del cazzo che stupidaggine mi saluti a casa altro tutto bene Almirante c'è partigiani e napoletano lo sa ci sono partigiani che hanno trucidato i preti nessuno dice queste cose vergognatevi nessuno Parenzo sei uno nessuno. Stronzo nessuno le dice piacere Parenzo Piacere, ha ragione Giuseppe. Il nonnino, ha ragione il nonnino della Repubblica Sociale Italiana. No, ma non penso che abbia il nonno della RSI. Il nonno di Salò. Il nonnino di Salò chiama alle 19:46. La realtà è che non frega un cazzo a nessuno. Il nonno di Salò. Questo è il punto. Se l'ha detto i cabagli elettorali, vuol dire che a qualcuno del suo elettorato interessa invece. La Meloni, dici. Certo, se no, perché l'avrebbe detto. Dove sei, Giuseppe? Mi è andato via, per fortuna. È ritornato nella sua spelonca. È ritornato nella spelonca. Ma si rende a cosa? Cosa si arrende? Io con Nonni Rando ho giocato a 3-7 quando veniva a Taranto. Se gli piace così, vecchio mio, giochi a 3-7. Perché non può giocare a 3-7. Sono onorato di aver giocato a 3-7. Se le piace così, che ti devo dire? Giochi a 3-7. Va bene. Marco da Firenze, vai, Marco. Pronto? Dimmi, Marco. Pronto? Oh, non credo, no. Che cazzate che dice, porca miseria. Come si fa a confrontare il culo delle 40 ore? Ne parlate da Almirante, mettete Togliatti, cioè, ma in Italia, voglio ricordare se è successo. Che è successo? Come è successo? C'è stato una guerra, c'è stato un pensiero unico, stato un regime. E allora? Allora c'è stato, prima cosa, gente, partigiani hanno combattuto per un ideale, per la libertà di cui tutti oggi noi godiamo. Meno male, bravo. Prima, ma che c'entra, ragazzi? Ma come dici che è c'entra? Pieno di strade intitolate ad assassini, a gente controversa, dai, solo diciamo ma Almirante sosteneva la parte che teneva invece, che teneva il pensiero unico per tutti. Sosteneva i tedeschi. Oh, i tedeschi sosteneva. Ma non confondiamo il culo dei 40 ore, la Repubblica Sociale era il governo fantoccio dei tedeschi, la Repubblica Sociale. Ma un po' di memoria, la memoria storica. Ragazzi, ci sono Togliatti, via intitolate a Togliatti, che ne ha fatte di cotte di crude, ammazzava un sacco di gente, ha contribuito a uccidere un sacco di gente. Nella Costituzione italiana. Antonio da Roma, dai Antonio. Finalmente la Cruciata va andare allo stadio e sto aspettando il cazzo. Allo stadio a che fare, scusa? Che a vedere la Lazio, no? Che c'è a Lazio oggi? Non ho capito. C'è a Lazio, sì, c'è a Lazio. Un amichevole, vabbè, dai, forza, non so che partita è, non lo so. Io sono contro padre contro figlia, vabbè, per portare i nipotini. Quello stronzo che lavora con te, sì, ha rotto i coglioni. Con chi parla questo? Stronzo ebreo. Parenzo. No. Parenzo, calma, piacere calma. Parenzo. Piacere Parenzo. No, fermo. Piacere Parenzo, che c'entra imbecille. Che ebreo? Scusa, che c'entra che ebreo? Non ho capito. Che deve, se lui vuole che uno sia educato con lui, lui deve essere educato anche con quelli che sono morti. E parlo di, che ha fatto la vernaccia quando parlava di Almirante. Vabbè, non d'accordo, ma non gli piace Almirante, sarà legittimo che non gli piace Almirante, Marco, o no? Per cazzo, non si fanno le vernacce. Ma non si fanno. Non si fanno le vernacce. La Repubblica Sociale Italiana, vecchio mio, Repubblica Sociale Italiana. Vabbè, si ma uno quella. Fa la vernacchia all'Almirante, sarà legittimo fare una vernacchia all'Almirante. Ma non è a lui quanto lui, alle idee che ha rappresentato, alla proposta di fare la strada. Alla proposta però, della via. Quando ti vedo per strada ti sputi in faccia. Ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Antonio, dai, su, ma che ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Che fai, aspetti? Che si dica l'aspetto? Ti aspetto. Perfetto, vediamo. Dai, se lo fa, così bene. Poi vediamo come finisce. Ciao. Mamma mia, ragazzi, ma che? Eccoci qui, Matteo Salvini, è lunedì, ragazzi, buonasera, buonasera Beppe, buonasera David, aspetta un attimo, ti faccio fare buonasera anche dalla piazza di Trieste. Collegamento da Trieste. È registrato l'applauso, come nei film americani che c'è l'applauso sotto, che roba è? La prima diretta interattiva da Piazza della Borsa di Trieste. Pensa che roba, ragazzi. Vi stanno ascoltando purtroppo per voi anche qua in piazza. Meno male. Buonasera, meno male. Compagni e compagni. Evviva Trieste, compagni. No, non ci sono tanti compagni qua. Da qualche... sì. Aspetta, un saluto a David Parenzo. Fischi. C'è un ragazzo con l'ombrello che ha urlato un vaffanculo che si è sentito fino a qua. Sentiamo un po' invece. Sì, non c'è un fai che ne pensate di Cruciani? Vai, facciamo questa prova. Sì. Che, allora, chi pensa bene di Cruciani batta le mani. Hai avuto 8 applausi. 8 applausi. E invece, secondo voi Parenzo è uno stronzo, vero? Questo non si può dire. No. Va bene giù il palazzetto se faccio una domanda come questa. Certo. Allora, stiamo parlando stiamo parlando di lavoro, della feriera sì, da chiudere, del porto da rilanciare. Vabbè, roba di Trieste, roba di Trieste. Roba di Trieste, roba di tutta Italia, perché sì, gli amici di Parenzo, finti profughi, stanno rompendo le scatole da noi. Che è successo? Un saluto ai migranti di Trieste! Forza! Resistete! Siete di più! Parenzo, forza! Sta i migranti di Trieste. C'è un clima ostile, mi pare. C'è è stato affettatissimo, Davide. Qua è una piazza sensibile alle tue esigenze buoniste. Un clima ostile. Parenzo, prima, Parenzo, fai una ringa sull'Austria che si è salvata. Fai una ringa sull'Austria. Cucù, cucù, e l'Austria non c'è più. Abbiamo vinto noi e non ve la diamo più. Cucù, cucù, e l'Austria non c'è più. Da mio figlio che ha 12 anni, però, a parte... No, io posso dire onore al popolo austriaco che ha dimostrato democrazia, coraggio, tutti contro uno si sono fermati al 49,7% contro una mucchiata di socialisti, democristiani, verdi, comunisti, europeisti. Beh, tanto quindi paura. Per me il popolo austriaco ha vinto a prescindere dal risultato. Questa sembra che è così una donata, è la marcia su Trieste, che roba. Senti, vabbè, parliamo di una cosa, di cose più serie. Trump ha detto che vuole dare più armi a tutti, pure agli insegnanti. Tu sei a favore di dare più armi agli italiani? Dai, fai una proposta, più armi agli italiani. Io sono a favore del fatto che gli italiani che legittimamente hanno un'arma la possano usare senza essere incolpati di eccesso di legittima difesa. E questo lo sappiamo. Poi gli insegnanti dovrebbero avere in mano dei libri in un paese normale, non delle pistole. Quindi io non sono a favore dell'armamento indiscriminato. Però io sono a favore di una legge che renda legittima difesa effettivamente la legittima questo difesa. Lo sappiamo, ma ci vorrebbero più armi? Io non sono a favore del fatto che si possa comprare una pistola andando nel primo negozio. Il mio modello non sono gli Stati Uniti, ma è la Svizzera, dove un cittadino su due è legittimamente armato e guarda caso i reati sono molti meno che rispetto in Italia. Dunque, se in Italia ci fossero più gente armata, si diminuirebbero i reati, secondo te? Sì, però le armi le devi anche saper usare. Vabbè, io reintrodurrei in Italia 4 mesi di servizio militare, servizio civile obbligatorio per riportare un po' di educazione civica e anche di educazione. Cioè 4 mesi di servizio militare obbligatorio, 4 mesi di servizio militare. Un anno no, ma 4 mesi di servizio civile o servizio militare obbligatorio per insegnare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi a sparare. Lo spirito civico, no, a sparare. E anche a sparare. Civico, il sacrificio. Giusto, e anche a usarle le armi. Ad aiutare i migranti, come no? A servire a tavola ai migranti che arrivano. Cioè no, come servire a tavola? In Svizzera il questo servizio militare è permanente per tutti fino a 60 anni, non è che vanno in giro a sparare. Capito, ma c'è ragione, per aiutare li farei lavorare appunto con i migranti per servire, per aiutarli a senti, mangiare. Tu la farei... Già i migranti sono serviti e riveriti abbastanza senza che qualcun altro debba andare a servirli ulteriormente. Dici, pulire le tende, sistemare, certo. Com'è? Senti, sì, ma come io no. Dimmi una cosa, ma tu la intitoleresti una via ad Almirante? Ma intitolare le vie onestamente non è la priorità. Cioè a Roma la Meloni ha detto, meno male, la Meloni che è il tuo candidato ha detto bisogna intitolare una via d'Almirante a Roma. Sei d'accordo o no? Questo è il punto. Ma guarda, onestamente non te ne frega niente. Non è una mia priorità, ma se è vero come è vero che in Italia ci sono vie Stalingrado, via Leningrado e vie intitolate ai peggiori carnefici di sinistra, non mi vedo dove sia il problema intitolare una via a qualcuno che ha fatto democraticamente politica anche per la destra. E dunque sì, allora sei d'accordo? A Roma anche tu sei d'accordo per fare una via d'Almirante o no? No. Il problema di vabbè, Roma ma lo so non che non è un problema, lo so delle che... vie. Ho capito, è però... mettere l'asfalto nelle vie, perché il problema di Roma è che alla via non ci arrivi perché finisci nella buca. Però d'accordo. Allora, poi mi spieghi questa cosa di far pagare il grande raccordo anulare, la cosa che mi sembra che sei a favore tu, di far pagare praticamente come se fosse l'autostrada, di far pagare il transito, no? Com'è che si dice, Parenzo? Il pedaggio, il pedaggio. Gratuite come in Svizzera, modello svizzero, bollino blu, cioè i romani dovrebbero pagare tarjeta. I romani dovrebbero pagare un bollino. No, ma il Grav ha pagato o no? Il Grav il modello è quello svizzero. Sì, ma il Grav a Roma va pagato o no? Una volta all'anno per 40 euro e giri in tutta Italia d'accordo. Avendo pagato. Sì, però mi devi dare euro. Una risposta su questo, fermalo. Voglio rinascere, Cruciani. La Zanzara. Allora, Siamo a Trieste con Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Caro Parenzo, allora voglio chiedere però a Salvini questa cosa: il GRA a Roma va pagato sì o no? Non allora, è che uno... ma perché mi vuoi far danneggiare la Giorgia Meloni? Ma no, ma l'hai scritto su Facebook, l'hai scritto che va pagato, adesso ti tiri indietro. Su. Quanti anni fa? Ma no, adesso, non mi ricordo, adesso. Ma adesso vabbè, l'hanno rimesso. Vabbè, l'hanno ripreso. Il sistema hai detto che italiano, io ma chi se ne frega a Roma è una domanda e io ti sto chiedendo del GRA a Roma si paga o no al monopolio delle autostrade niente. Usano male e lo farei pagare ovunque da nord a sud la targhetta come c'è in Svizzera. Vabbè, è quello in generale è così 40 ma... euro i giri dove vuoi quando vuoi come vuoi punto cioè il sistema quindi svizzero si in Italia penso che il le sono svizzero per il servizio militare sì per dunque il grande difesa. Raccordo anulare di Roma va pagato giusto bisogna pagarlo è assurdo che sia gratis come l'hai scritto tutti tu anni fa trattati nella stessa maniera l'hai scritto tu anni fa hai scritto tu anni fa che il GRA va pagato perché è assurdo che sia gratis il GRA... guarda io vorrei che tutta Italia niente siccome è una cosa che alla Meloni non piace non è il popolare fosse pagata nella stessa fosse appunto pagata, siccome il GRA è assurdo che sia gratis è giusto maniera. No ma guarda niente. No non, io non voglio far pagare i romani vorrei ho capito, non far però... pagare i lombardi vabbè, che è diverso non voglio far pagare qualcuno vabbè, in meno ma che c'entra voglio dai far pagare qualcuno in meno io voglio quindi dire oggi maggio 2016 ti dico io vorrei le tangenziali a pagamento come in Svizzera dappertutto o gratis dappertutto e dunque punto. Anche il GRA va pagato bisogna ma pagare anche ma tu pensi niente. Che a Roma gli interessi beh sì se si paga il GRA sì sì se si paga il GRA dell'accordo anulare sì interessa molto questo interessa più questo della via di Almirante e vabbè se la pagano a Milano è giusto non pagare a Roma è giusto non pagare a Roma posso dire che per come vanno piano sul GRA dovrebbero essere quelli che l'hanno ideato il grande raccordo anulare a pagare i pendolari che vengono a Roma a lavorare vabbè, l'hai ribaltata così senti prima o poi dobbiamo organizzare una marcia dei puttanieri a favore delle case chiuse vabbè ma lasciamo perdere questo altro modello svizzero modello austriaco tassazione della prostituzione questa sarebbe una vabbè. Delle prime leggi anzi sarà senti, una Fedez tassazione della prostituzione delle case chiuse il signor Fedez ti ha fatto il dito medio in un video no? In vabbè, un video ci sta signor Fedez sì quello ha fatto il dito medio in un video ha fatto il dito medio amen eviterò A di comprare il suo disco B di comprarmi il cornetto Algida visto che quella canzone verrà usata come sponsor dal cornetto Algida che è pure in mano di una multinazionale straniera mi mangerò un cono ma che te ne frega dell'Algida di un gelataio italiano peraltro pare che non siano molto contenti di questo spot cioè i signori dell'Algida pare io come consumatore sarò uno su 50 milioni ma se devo comprare il cornetto di una multinazionale che usa come spot uno che mi fa il dito medio vado a mangiarmi un cornetto samontano vado dal gelataio nostrano sotto casa mia cioè tu inviti tutti a non comprare Algida gli italiani penso che abbiano problemi maggiori rispetto al dito medio di sì, quello spigato però... di Fedez che guadagna quanto me, te, Parenzo messi insieme per dieci anni di lavoro apre e chiuso la parentesi non è giusto secondo te che guadagni così tanto? No, è un gran cantante insomma per me dopo De André dopo Battisti e dopo Dalla viene Fedez come qualità musicale no? È un paroliere di prim'ordine quando tu senti 21 grammi cosa ti viene non ti apre il cuore a sentire 21 grammi dai. Vabbè, io non ho capito una cosa che c'è Parenzo che c'è non ho capito. Comunque, grazie agli amici austriaci Parenzo se l'è vista brutta ma la vittoria è solo rimandata di qualche mese, non c'è problema. Anche di più direi. Appello agli amici migranti presenti a Trieste, state tranquilli. Giornalisticamente parlando, mi spiegate perché il Partito della Libertà austriaco per i giornali italiani è razzista, xenofobo, estremista? Razzista lo è sicuro. Ma possiamo dire che abbiamo dei giornalisti in Italia di bassissimo livello, dei pecoroni? Guarda che l'hanno detto i giornali austriaci. Lo hanno Hoffer è stato descritto così dagli stessi austriaci come l'estrema destra ultranazionalista. Il 49,7% degli austriaci sono razzisti, fascisti, non sarebbe la prima volta storicamente lì dentro non sarebbe la prima volta eccolo lo scemo storicamente che lì dentro come in Austria è nato Hitler allora no, gli austriaci sono tutti storicamente diciamo che Diciamo che anche il signore lì, come si chiamava, il vostro amico lì, quell'altro che poveretto sì, è diciamo morto poi. Teresa ha portato come si chiamava l'altro lì? Haider. Diciamo che anche in passato anche Haider ci ha messo del suo, diciamo. Perché chi non la pensa, come il politicamente corretto, lascia come perdere, la solita roba, Le Pen, Trump, gli austriaci, sono tutti razzisti, hai citato persone notoriamente xenofobe che hanno costruito una campagna elettorale notoriamente xenofoba. Ma come Trump nei sondaggi è davanti finalmente c'è il pericolo America. Perché sono tutte successo della democrazia e se non vince la sinistra è perché sono tutte puttanate, sono tutte puttanate, dai, sono tutte puttanate. Nessuno parla di pericolo, però un applauso a Beppe Cruciani. E poi comandali, comandali, pazzesco. Vabbè, senti che il Milan deve essere cacciato Brocchi o no? Berlusconi deve cacciare Brocchi o no? No, ma il problema del Milan non è in panchina, il problema del Milan è più in alto, è la società. Ho capito, quindi, d'accordo, ma Brocchi va cacciato. Non andare via l'ennesimo allenatore, puoi portare anche Guardiola o Padre Pio sulla panchina del Milan, ma se hai una società che è allo sbando e la società Milan è allo sbando, non vincerai mai più niente per i prossimi dieci anni. Niente. Cioè, in questo momento, per i prossimi dieci anni, Nisba. Ad Arcore. Beh, ad Arcore pare che vogliano vendere, o forse no, non si capisce bene. Io spero, guarda, da tifoso, io ho iniziato a vedere il Milan in Serie B quando avevo pochi anni, spero che venda, perché almeno il Milan in B aveva una dignità, aveva un attaccamento, aveva ma un i cinesi orgoglio. Non vogliono più il Berlusca, cioè, meglio, meglio in B, ma dici. Può vendere ai cinesi, agli esquimesi, ai finlandesi, meglio in B, meglio in B, meglio in B. A chiunque, Silvio vendi, anche ai Rom può vendere, anche ai Rom. No. No, i Rom poi fanno pulizia negli spogliatoi, no, quello eccolo là, eccolo con la battutina razzista. Eccolo là. Ciao. Eccolo là che scivola proprio all'ultimo minuto. Vabbè. Oh, ragazzi. Allora, stanno girando. Basta, da un po' di chiudiamo qua. Era bella la trasmissione fino adesso. Aspetta, stanno girando. Chiudila qui, dai. Un attimo, non mi rompere i coglioni. Sì. Stanno girando su internet, su Facebook, dei video che sono stati già mandati in onda da più radio, eccetera. Di un tizio, di un gruppo di persone che si chiamano il Milanese Imbruttito. Vanno a sentire le persone nelle discoteche, degli sfigati nelle discoteche, degli sfigati, cioè dei ragazzi che vanno in discoteca e ovviamente questi dicono qualsiasi cosa, no? Per esempio sugli eterosessuali, hanno fatto lo stesso trucchetto che abbiamo fatto noi, i matrimoni eterosessuali. Senti. Parliamo di attualità. Dimmi tutto. Che cosa ne pensate dei matrimoni eterosessuali? Oh, per me puoi essere ricchione, te lo giuro, basta che non mi tocchi, te lo giuro. Comunque è sbagliato, perché comunque non è una famiglia. Ognuno può fare quello che vuole col proprio culo. Non è naturale. Che cos'è per te naturale? L'amore tra l'uomo e la donna, tra il sure e la sciura. Finché loro fanno le sue cose per come sono loro va bene. Se inizia a cagare l'amico un po' di più, un po' mi dà fastidio anche. I giovani nelle discoteche milanesi, poi ovviamente uno dice questi sono i giovani, è una cazzata, non sono i giovani italiani, certo, questi sono quattro giovani. Coglioni che quattro sono in discoteca, strafatti, cioè, strafatti. Che stanno nelle discoteche, non è che sono i giovani d'oggi, cioè, qualcuno l'ha presentati come i giovani d'oggi, è un esperimento interessante, divertente, sarebbe come dire che chi chiama la radio è l'Italia, chi chiama la zanzara. Beh, oddio, questo è un po' è diverso, questo è un po' diverso, per fortuna non è così. Senti, sull'inquinamento, sarebbe da espatriare subito. Senti sull'inquinamento, senti. L'inquinamento è un altro tema molto sentito a Milano soprattutto. Come la vivete? Me voto. Lo vivo normale. Senti quest'altra, senti questa sull'integrazione, sugli immigrati, senti. Sei favorevole alla legalizzazione dell'integrazione? Certo. Come mai? Perché vive ai negri. Perché? No, perché è proprio come sembra, è proprio come l'ho detto. Io sono Mattia, ho 23 anni e amo la figa! Questo lo presentano come una specie di esperimento sociale, capito? Un amico tuo questo qualcuno? No, ma che è un amico mio, amico un tuo, cretino che risponde ai microfoni. Ti pare che io mi metta a rispondere ai microfoni in questo modo? Che ne so io? Non dire stronzate, dai. Francesco da Bari, vai. Ciao, senti, io volevo dire una cosa molto interessante. a proposito della Poskin, che è il ministro delle riforme, l'unica riforma che doveva fare è quella di riaprire i casini, sì, perché metteva almeno le sue simili in modo un po' più decente. Mi ha chiesto, idiota, qua. Cioè, perché scusa Francesco, perché dovrebbe essere le simili della Boschi? Cosa significa? Un idiota. Perché la Boschi, se è il ministro delle riforme, quella è la riforma che va fatta, non le puttanate che stanno facendo. Sì, ma che c'entra le simili? Lascia perdere, che secondo te, anche per me è giusto fare la riforma della prostituzione e riaprire i casini, però è un altro discorso. Più importante quella della riforma istituzionale, questo non c'è dubbio. Però Francesco, che c'entra riaprire i casini e ridare dignità alle sue simili? Non ho capito. Perché praticamente i suoi simili sono le donne, cioè andando per strada, quando io ridare dignità alle sue simili, cioè alle donne, Vabbè, cioè, io l'avrei fatto. Ma in Italia non hanno le palle per fare una cosa del genere. Non hanno le palle. Enrico dalla provincia di Forlì, vai. Enrico, dimmi, dai. No, volevo dire una cosa. Ho sentito che voi parlavate di Israele, della... Sì, prima ne parlava un ascoltatore, allora? Ne parlava un ascoltatore. No, volevo dire che proprio dal di lì è nato tutto il casino, tutto che c'è nel mondo arabo e roba del genere. Però, l'avevo detto un'altra volta, ci sono 580 risoluzioni dell'ONU che intimano ad Israele di andarsene. Sì, però non rifacciamo qui la storia che è noiosa, eccetera. Cosa vuoi aggiungere a tutte le discussioni eterne dopo l'intervista che abbiamo fatto a quella candidata in cui ha paragonato? Perché quello è il punto. Lasciamo perdere la storia dei bambini, eccetera, eccetera. L'idea di quell'intervista che abbiamo fatto così contestata a quella candidata di Magistris è solo una, il paragone che è stato fatto tra i nazisti e Israele, che è stato confermato. Tutto il resto sono chiacchiere. Se uno paragona i nazisti a Israele, cioè il comportamento dei nazisti con gli ebrei al comportamento che hanno gli israeliani nei confronti dei palestinesi, secondo me è un imbecille, punto e basta. E uno ha il diritto anche di dirlo. Poi Parenzo l'ha detto in un modo, io l'ho detto in un altro, comunque non l'ho detto, ho fatto delle domande, ma queste sono tattiche, espedienti radiofonici. La sostanza è che quella signora lì ha confermato quello che ha scritto, che è secondo noi una puttanata. Dopodiché, poi, siccome siamo in democrazia, le persone sono padrone del loro destino e di quello che dicono, e soprattutto di dirlo. E in questo paese è consentito anche di dire queste puttanate. Questo è il bello, capito? Che devi aggiungere a questo? Non ho capito. A volte sei ironico, ma tu sei una persona capace. Sì, ma cosa devi aggiungere a questo? Dimmi. No, lascia stare. No, voglio aggiungere che insomma queste cose qui non si possono dire, però sarebbe ora. No, ma si possono anche dire, si dicono infatti, lo ha detto da noi uno scrittore, un professore, Vattimo, e che poi non vuole più venire qua semplicemente perché ha detto esattamente quello che pensa, senza che gli abbiamo estorto una parola, non vuole più venire qua. Hai detto la puttanata, che è colpa nostra. Cruciani, Parenzo, vi odio, perché il mio fidanzato preferisce voi a me. La Zanzara. Sotto la doccia, io piscio sotto la doccia, sotto la doccia, io piscio sotto la doccia. Io faccio la pipì nel tuo bidet, nella tua doccia e nel tuo lavandino già da un bel po'. Però io sono legittimata perché cerco di marcare il territorio. Parenzo, ma dov'è che vivi tu? Guarda che c'è un sacco di gente che piscia nel lavandino, non è mica una roba così strana. Io, ad esempio, quando mi stufo di sentire mia moglie che mi rompe i coglioni perché non c'entro la tazza, mi metto lì, bello comodo, sereno, in piedi, piscio nel lavandino, non sporco da nessuna parte e nessuno mi spacca le balle, capito? Comunque, siamo al top. Io, anche se non ho il Morning Glory, faccio pipì nel lavandino perché mi piace. Ragazzi, si è scoperto un nuovo mondo, eh? Vabbè, si è scoperto, era capricciante. Si è scoperto un nuovo mondo. Era capricciante, però perdonami se io dico così. Perché mica negli ambienti che frequento io, che frequento tutti gli ambienti, ma scusami, ma a casa tua, caro Beppino mio, i tuoi amici, ma se qualcuno immagina l'avvocato Trucco, adesso, ma secondo te l'avvocato Trucco viene a casa tua e fa la pipì nel lavandino? No, ma infatti, questa gente dice a casa propria, non dice a casa degli altri. Ma che gente è questa? Ma adesso io non voglio risultare strano io, perché veramente non ce la faccio più. Ma secondo te è normale? Ma secondo te, ad esempio, che so io, Alberto Quadri Curzio del Sole, oddio, secondo te fa... Ma no, ma non lo so, ma piscerà anche lui, no, nella vita? Ma ho capito, ma magari non lo a casa sua, e che ne mio. Sai? Che ne sai? Ma... Cosa? Che ne sai? Gli sarà ma capitato? Sei matto tu, gli sarà ma capitato? Sei imbacato in testa. Ma che ne sai? Ma che gente frequenti tu? Ma questa gente qua io ti non chiama? Capisco che male c'è a pisciare nel proprio è gente mala. Che male c'è? Nel proprio lavandino, non capisco che male. I denti, ma sei matto? Ma perché? Qual è il problema? Ma allora è roba tua, è roba tua. Adesso si scoprirà che è normale pulirsi i denti con lo scopettino con cui pulisci lo scivolone del bagno. Sì! No. Arriveremo a questo, arriveremo che chiamerà uno e dirà: Cruciani, io mi pulisco i denti con lo scopettino con cui pulisco il bagno. Tu dirai: che male c'è? È normale. E diventerà tutto normale. Per te tutto è normale, ciò che fa schifo. Mi sembra di Nolfi che dice: siccome uno dice sì, si è arrivati anche a questa, adesso sicuramente si arriverà a quest'altro. Sì, ma sicuramente no, si arriva a dire che è normale. Arriverai a dire che è normale pulirsi i denti con lo scopettino del bagno, perché l'ha detto uno ascoltatore. Normale, ovvio, dai. Lo fanno tutti, anche la Merkel. Ma come la Merkel? Ma cosa dici? Ma non è vero. Traffi una sera. La Zanzara. David, l'ultimo cambio mutande è stato con l'ultima doccia, 2 mattine fa. Allora, direi che è il momento alle 20:20, caro David, sì, di chiamare Donna Assunta per questa storia di Almirante, così chiudiamo il cerchio, no? Chiudiamo sì, tutte le discussioni. Donna Assunta Almirante mi sembra la persona. Ma perché? Secondo te non va intitolata una strada da Almirante a Roma? No, a mio parere me, se qualcuno lo vuole fare lo faccia. Non mi strappo i capelli, non mi strappo i capelli. Beh, via Bombacci faremo poi. Ci sono vie intitolate ad assassini, quale assassino? O a complici di assassini, a complici di assassini. Sì, Bonaparte non è un assassino? C'è Napoleone Bonaparte, cioè Foro Bonaparte, è pieno di vie intitolate a persone controverse. Beh sì, cioè non era certamente un pacifista, è un pacifista Napoleone, è un'altra epoca, per carità. Ma che cazzo, cosa c'entra? Vabbè, ragazzi, dai, ci sono vie intitolate a personaggi controversi. Ma cosa c'entra? Comunque, guarda, non me ne frega niente, come di quasi tutte le cose, non me ne può fregare di meno. La signora Meloni vuole fare questa cosa, se vincerà intitolerà una strada al signor Almirante. Mettiti l'anima in pace. Se vincerà la signora Meloni, intitola una strada dominante. Io direi una telefonatina, però, Donna Assunta va fatta, perché Donna Assunta ha quasi 91 anni, amico mio. Cerca di stare calmo, non farla arrabbiare troppo. Perché quella... Poi... Non fatemi arrabbiare voi. Vabbè, proviamo un po', dai. Donna Assunta? Sì. Buonasera, sono Cruciani, come sta? Abbastanza bene, ringraziami Dio. È contenta, mi sembra, no, di questa cosa della Meloni? Ma mica solo lei che l'ha proposto, l'hanno proposto tante, basta vedere che l'accetta poi. Cioè, sono contenta, non è una novità la mia, Cioè, lei dice tutte chiacchiere? Non sono una di quelle che si infiamma, capito? Io vedo le cose fatte. Non si illude, non si illude. Non mi illudo, no. Ma ci vorrebbe una bella via Almirante? Certo che ci vorrebbe, perché no? Ce l'hanno tanta gente che non era nessuno. Ma dove la mette? Che ha dato tanto agli italiani, non credo, sì, no? Sacrificandosi la vita. Stia tranquilla che per fortuna non ci sarà mai, dico io. Per fortuna non ci sarà mai, mai per fortuna. Chi è questo che glielo dice a lei? Ma questo è Parenzo, che ricorda che il signor Almirante è stato nella Repubblica Sociale Italiana, nonché direttore della difesa della razza, dove ci scriveva. Madonna mia, sono cose a 17 anni aveva. Non si vergogna persino di dirlo. No, ma che lo ricordo anni come? Aveva, 17 ma... anni aveva e non la invito più a dire queste cose. Ma non la invito perché più. Perché è una vergogna per chi li ripete. Lui lo ha sempre... Un ragazzo di 17 anni al liceo adesso lo volete accusare di queste fesserie. Lui, fesserie, lui lo ha sempre... Ma faccio la cortesia, guarda, non perdo tempo con lei. Lo ha sempre rivendicato. Ma ignorante niente, lui lo ha sempre rivendicato. Allo stretto, la signora Almirante è poverina. E chiameremo le guardie del Duce, chiameremo difesa. Ma dai, su, esatto. E fate la marcia su Roma per questo. Aspetta, richiama un attimo, scusa. Richiama la marcia. E gli chiedo scusa un attimo, signora Almirante. Dai, ma scusa, la signora Almirante non ha lei mi chiude il telefono in faccia perché io le ricordo il passato del signor Giorgio. Signora Almirante, mi scusi, ma Parenzo è un cafone ogni tanto. Non, ecco, era è un cafone. Era Parenzo, sì. Ma ha visto che gli ebrei a Roma sono arrabbiati, dicono mai una via d'Almirante, mai. Ah, ma scusi, tanto, eh. Sì. Se lei faccia conto è un ebreo. Sì. E gli portano sto piatto ben preparato. Ma le pare che quelli non se ne preoccupano. Ma qua niente di meno, questo l'ha scritto, niente di meno che aveva 17 anni. No, ma ho capito signora, però gli ebrei a Roma... Ma conto il cretinismo degli italiani. No, ma gli italiani, in questo caso... 17 anni. No, anche gli italiani. No, in questo poi caso... è diventato un professionista. È stato a casa nostra, ci ha vissuto un ebreo. Figurati. Un ebreo ci ha vissuto, lui con tutta la famiglia, la moglie, il figlio di questo signore. Intimi amici che fino all'ultimo, se c'è stato uno che veramente la pianta è stato questo qui. Ma no, non ci serve la strada d'Almirante, oh. È inutile che me la propongono, non la voglio. Come non la vuole? Bene, non la voglio, ce n'ha tante di strade in Italia che gli bastano. Almirante era una persona troppo corretta, troppo per bene, troppo signore. Dunque... per poter essere insultato in questa maniera, no. Almirante la strada, la facciano a loro la strada, magari prestissimo. A chi? Ai cosi? Ai ebrei, dice. A questi che la vogliono, a questi che non la vogliono, auguro che gliela facciano a loro. Visto che la strada loro non vogliono, se la facciano per loro. Dunque, lei dice alla Meloni, fatta. Lei dice alla Meloni, basta proporre queste cose perché io non voglio cose dove ci sono polemiche. Dove ci sono. Certo, senza dubbio, Almirante non merita questo atteggiamento. Non una merita la strada, troppo riservata, non c'è dubbio. Troppo per bene, troppo giusto. Per amore per la gente. Io dovrei cambiare residenza. Se abitassi in via Almirante, chiederei il cambio della residenza. Ma adesso come farei? Esageri, dai. Ma te tu. Scherzi? Ma scherzi davvero? Dici col taxi, scusi, mi porti in via Almirante. Ah no, scusi, no, non voglio andare. Tu, no, tu non abiteresti, strade... tu non abiteresti a via Almirante. Ma mai. Ma voglio dire, poverino, ma non. Poverino. Mai. Magari avesse l'onore di abitare in via Almirante. Ma guardi, non avesse ci penso. Chiamare l'onore di via abitare Carlo in via Rosselli. L'onore io voglio abitare in via, no, Carlo Rosselli. Nessuno glielo dà. Via Inaudi, via Rosselli, via Pasolini, lì abito io. Poverino, un corno. Un corno. Ha ragione la signora Almirante. Ha ragione cosa? Il signor Almirante scrisse delle cose terribili sulla difesa della razza. Rivendicandolo. Rivendicandolo. Almirante viene peraltro, avuto tante e gli bastano e gli avanzano. Ha camminato troppo nella sua vita. Lei è stato sempre chiuso in un cantuccio. Cosa fa a parlare? Stia buona. Arrivederci tante cose. Nessun arrivederci. Non parlo con i cretini io. Arrivederci. Nessun cantuccio. Grazie signora. Oh, sei riuscito per due volte a farti buttare giù il telefono dall'Almirante. Questo 5 potrebbe... maggio 1942, basta, ragazzi, Giorgio Almirante scriveva: ma chi se il ne frega? Razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia. Vabbè. E sia viva in tutti la coscienza della Marco razza. Da Milano, Marco da Milano. Ah, Marco da Milano è bravo, quello dell'Espresso. No, bravo. No, è Marco che è chiamato da Milano. Allora Marco, me ne frega la solita cazzata. Me ne che frega dici, niente. Dai. Dai. Eccomi, Marco da Milano, eccomi. Dimmi. Avete parlato di armi e come al solito avete detto un mucchio di stronzate. Che abbiamo detto, Parenzo, che abbiamo detto, dai. Soprattutto Parenzo che è il signorante. Poi esistono delle vie. Buonasera a lei. Esistono delle vie intitolate a Lenin. A Lenin in Italia, ma di che stiamo parlando? Che frega, ma problema, dai, un pluriassassino, un Lenin, un ma che c'è da con la storia italiana, Lenin? Qui stiamo parlando della storia d'Italia, però. Eccomi, allora tu, Cruciani, tu ti rifugi in questa stronzata. Piazza Cavour, sei diventato, che sei diventato, che guardi solo dentro i tuoi confini, tu che sei così aperto, questo, tu che sei così, no? Che sei così internazionale, via adesso Lenin, guardi solamente la realtà italiana. Ci sarà via Lenin, via dai, Stalingrado, c'è cioè a Bologna, benissimo, dai, ottimo. E dai, ottimo. Marco, dai. Allora, Cruciani, tu hai decontestualizzato l'affermazione di Trump. Sì, però amico mio, noi... ascoltami. Qual è il problema? Secondo te, perché tutte le stragi negli Stati Uniti avvengono nelle università? Perché? Perché avvengono nelle università? Perché dimmi. È l'unico posto dove un mazzo armato sì, può entrare facilmente. Qualcun altro che lo ferma. Se può entrare facilmente. E allora? E allora? E allora l'affermazione di Trump non è una follia, ma è... Chi ha detto che è una follia? Chi ha detto... nelle università sì, ma... e mettiamo in condizioni o gli insegnanti oppure un servizio di vigilanza di fermare uno che vuole compiere una strage prima che diventi una strage. Ma chi ha detto che è una follia? Ma chi ha detto è che è un'affermazione estremamente logica? Ma chi ha detto che è una follia, scusami? Tu l'hai detto. Io non ho detto affatto che è una follia dare le armi agli insegnanti. Non ho... Sì, l'hai detto come no, non ho detto come questo. Ho detto semplicemente. Ho detto che. Sì, ma amico mio, ma qui non stiamo all'università secondariamente, Parenzo, eccetera. Parenzo, quando parla della lobby delle armi, del signor Beretta delira. Non, non c'entra, non ho detto io Beretta, non l'ho tirato in ballo, io non mi interessa. Ho detto semplicemente, che la campagna di Trump è finanziata come tutti in modo trasparente e sano dalla lobby delle armi, e questo a me personalmente non piace. Vabbè, e infatti non, non lo voterei, voterei un altro, e punto, questo sto dicendo, un altro candidato. Poi no, che vabbè, sia legittimo Marco, finanziare ciao. È evidente. Sergio da Varese, vai. Sergio da Varese, tutta sta. Vai Sergio, dimmi. Sì, pronto. Dimmi, dimmi. Io volevo parlare della soluzione che l'Europa dovrebbe prendere per gli immigrati e il problema. Sì, che dovrebbe fare? Dimmi, avanti, sentiamo. Quello che hanno fatto gli americani con noi quando cioè? Hanno insegnato ai partigiani a usare le armi e fare la guerra contro i nazifascisti. E dunque loro che dovrebbero fare invece? Noi che dovremmo fare con dovremmo accettarli, sì? Metterli nelle caserme. Sì. Insegnargli a usare le armi, fornirgli le armi e, poi? E permettere a loro di andare a fare la guerra di liberazione a casa loro. Sì, è un po' complicato perché vengono da un sacco di paesi in cui i problemi non è che si risolvono con un esercito di liberazione creato nelle caserme italiane che ormai praticamente sono quello dovrebbero che sono. Dovrebbero essere europee, non vabbè. Italiani. Ciao Sergio, ciao Sergio, ciao. Siete due cialtroni, annadazza palatera. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Dopo alcuni giorni, caro David, torna il peggio o il meglio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Ascoltatori. Servi di Roma fuori. Non vogliamo i clandestini. Guarda che quelli più pericolosi non sono i clandestini, sono quelli che si dicono rifugiati, che quelli non ce li togliamo dalle palle. Eh sì. Guarda oltre i monti, non permettere. Poi se la prendono con te, David. Vai vedere. Ho sentito il signor Parenzo che affermava che la tua trasmissione, cioè la trasmissione che fai con noi, è una cloaca. La cloaca è un conduttore che trasporta liquami. Bene, noi siamo la cloaca, signor, ma voi siete quello che scorre dentro. Salirà alto nel cielo. Di fare una piccola così comunicazione al signor Parenzo. Sì. Come vedi, io lo chiamo signor Parenzo, non mi vado a studiare aggettivi per insultarlo. No, sai che quelli querelano, è una famiglia di avvocati, vivono così a querele. Ritengo sia già abbastanza punito dovendosi guardare in faccia allo specchio quando si radia tutte le mattine, per cui si autopunisce da solo. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Allora, carissima Boschi, io ti chiedo umilmente e sommessamente un favore. Prima di permetterti un'altra volta di parlare dei partigiani, visto che sei una bambina che ha ancora il latte alle labbra, pulisciti il bocchino dal latte, perché hai finito ieri di essere svezzata. E non ti permettere più di parlare dei partigiani, per cortesia, perché non sai neanche che cosa sono. Il potere falso che ci sono. Però in questo io sono qua. No, sono sei schizofrenici. No, però sei quasi d'accordo con. No, con... ma loro sì, sono. Sì, sì, sei quasi d'accordo con l'ascoltatore di Radio Padania. Come no? Come matematicamente no? Impossibile. Ti spiego, però, sono schizofrenici questi qui. Perché? Cioè, pur perché? Di dare addosso al governo, difendono i partigiani. Salvo poi dire minchiate razziste a rotta di. È come se tu aprissi. È come se Radio Padania, questa roba, sai quei water dove si rompe lo scarico? Vabbè, però, perché devi insultare? No. Questi qua. Mi è gente che interviene, io? È un sacco insultare. Di è un sacco è di gente che interviene anche è gente che interviene, normale. Ma sì, è normale, ma certo, è normale. Assolutamente. Allora, quando ti si rompe il bagno, tu hai questo scarico che a me non è mai successo, però beh, sarà ti capiterà. No, ti rompe il bagno vedrai cosa, ti capiterà. Ti si rompe lo scarico. E allora? Quindi possono accadere due cose. Quella cosa migliore è quando c'è tutta l'acqua che scende e quindi questo non è un danno. Dunque? Perché c'è l'acqua che scorre. L'altro caso è invece quando ti si blocca proprio lo scarico e quindi ti sale tutta la roba che c'è nella fogna. Loro? È questa seconda ipotesi. pensamenti. Senti, senti sulla Boschi, senti. Pronto, sono andato da Torino, una precisazione. Prego. Il signor Socrate ha telefonato prima, no? Ha detto che la Boschi ancora il latte sul... Sì. Forse non è il latte, una precisazione. Non voglio andare oltre. Cioè, capito? È gente schifosa. Cioè, riferimento alla telefonata, ma quello che gente... ha la Boschi intorno alla bocca è non gente... è latte. No, ho capito, non occorre che lo spieghi. No, è gente... capire, perché sentiva basso. No, si capiva benissimo, purtroppo. È gente schifosa, dai. È gente schifosa. Varin. È gente... Senti, no, Varin. È gente col servizio pubblico, peraltro. Cioè, questi sono insulti pagati coi soldi degli italiani. Questo. Senti, senti Varin, senti Varin. Sì, Varin. Gente miserabile. C'ho questo debole per la Boschi, aspetto ancora che mi risponda al mio invito, un invito a cena per un ristorante a rutto libero, di quelli che entri dentro, sai che c'è l'osso che dice: uè cazzone, dai dai puttana, dai siediti, non rompere i coglioni. Sono sicuro che si troverebbe a suo agio, guarda. No, no, perché la chiamano puttana, che cosa c'entra? Ma non nemmeno il coraggio di dire, di dirlo fino in fondo, signor Varin. Varin, questo era il peggio di Radio Padania. Dove andiamo? Andiamo Simone Roma. Simone Roma, è successa una cosa abbastanza bella. Aspetta Simone, aspetta un secondo. Mi segnalano un sacco di ascoltatori da oggi. Una professoressa americana, credo, che è americana, che cos'è? Sì, americana, credo. È morta in montagna scalando l'Everest. Questa qua, perché voleva scalare l'Everest? Per dimostrare che i vegani possono fare qualsiasi cosa, ti giuro. Una donna, cioè, voleva dimostrare che i vegani non sono deboli perché non mangiano carne, anzi ha deciso di scalare le 7 vette più alte del mondo, ma in realtà è morta. Ora, poverito, chiaramente non è che è morta in quanto vegana, però tutti i giornali, tutti i siti, cioè, titolano in questo modo: noi vegani possiamo fare qualsiasi cosa, professoressa muore scalando l'Everest. Ora, se fossi, capito, i vegani, i nazi vegani e gli animalati, al contrario, capito, sparerebbero a zero. Io invece dico che chiaramente non è morta perché è vegana, ma beh, è morta, direi, certo, per un caso, naturalmente, sull'Everest. Però, dove andiamo? Andiamo a Roma, Simone, vai. Buonasera, dimmi, Luciani, dimmi, buonasera, dimmi, Parenzo. Dimmi, buonasera. Allora, buonasera. No, volevo intervenire riguardo buonasera al Buonasera a lei, caro allora, Simone. E innanzitutto Giorgia Meloni ha assolutamente ragione a intitolare una via al Giorgia Meloni. Va bene, poi? Mi piace per Parenzo, perché... No, se posso argomentare, perché e dimmi, dai. Non c'è molto da argomentare, destra, però è una cosa molto importante. Vabbè, qui non è il comizio, però Alemanno che non l'ha mai fatto. Ma sì, ma non è un comizio questo qua. Le vie non sono il revanchismo di qualcuno, di qualche parte. Non è il comizio, tu sei d'accordo, cioè se tu ci hai chiamato semplicemente perché sei d'accordo, chi se ne frega, cioè qual è il punto? No, no, sono d'accordo, e poi volevo dire una cosa a Parenzo riguardo appunto la Repubblica Sociale. Vabbè, Mario da Brescia, ciao, Mario da Brescia. Ciao, ciao, Cruciani. Ciao Cruciani. La Repubblica Sociale alle 20:41 non ce la faccio. Una puntata che già sì, abbiamo dedicato forse troppo a questa storia della strada d'Almirante e ad altre cose. Alla fine, non ce alla la faccio. Fine programma. Ascolta, io volevo farvi presente la notizia accaduta venerdì a Jesolo. Sì, che è successo? Del figlio del noto Albano Cassol. Sì, sì. Ma il figlio di quello che è stato ucciso da Stacchio, sì, della famosa rapina alla gioielleria di Nanto. Cioè, essere agli arresti perché preso per le rapine alle si è rubato machine, una moto, hanno fatto una specie di caccia all'uomo pure con gli elicotteri, l'hanno preso ed è stato già rilasciato, preso, sì certo, rilasciato il giorno stesso, sì sì, vabbè, allora, dopo. Dunque è così, ma volevo sentire Parenzo cosa ne pensava. No, Parenzo, cosa ne pensi? Se uno è criminale, cosa deve dire Parenzo? No, cosa che è stato rilasciato, sì. Amico mio, però quelle sono le leggi italiane, se uno ruba una moto evidentemente non ci sono però gli estremi leggi... Sono leggi, io non so quali precedenti idiote. Non so quali precedenti abbia questo signor Albano Cassol, so solo che ha dei precedenti per furto, dovrebbe, per me dovrebbe stare in galera, dopodiché le leggi italiane, come sì, sappiamo, sì, però, ti mandano in galera solo a sentenza definitiva, non e, è proprio e così, nemmeno la carcerazione preventiva, sì, come vabbè, tu sai bene, non è il caso di furto, sto non dicendo, è il caso di parlarne. Vabbè, allora Mario, in galera. Ecco, io volevo sapere appunto Parenzo cosa non ne pensa, pensa niente. Amici Rom? Parenzo non pensa niente. Niente in questo momento, infatti, né ha intenzione, esatto, di pensare, né ha intenzione di interloquire, sì, con questo simpatico signore. Sì, tu non pensi niente, sì, perché non sei in grado di niente, pensare niente. Io non infatti, lei è Simone, come si chiama questo? Hai avuto dei problemi come da si piccolo. Chiama questo qua? Come si chiama questo qua? Mario, dice che ha avuto Mario, dei problemi da piccolo. Ho sentito, come si chiama? Tu hai avuto qua? Dei problemi da piccolo, come Parenzo? Si chiama questo hai qua? Che parla? Come si chiama questo qui? Il nome Mario. Di questo? Mario da dove? Mario. Mario da Brescia. Mario da Brescia. Io di Mario da Brescia me ne fotto. Ma proprio. Dice che te, ma, se ne fotte. Ma no, dice, ha sentito, ma me ne fotto totalmente di Mario da Brescia. Perché devi essere così sprezzante? Perché la mia giornata non cambia. Vabbè, ma ho capito, ma che vuol dire di Mario da Brescia? Ma cosa frega niente? Né mi frega del suo livello di discussione. Non mi interessa niente. Non mi interessa. Eccolo qua. Non mi interessa. Un sfigato come te, sì, senza asse né parte, se non fosse per Radio 24, sì, saresti a pulire i cessi, a pulire i bagni, non assieme credo. A Doina, questo assieme a Doina, certamente, buona compagnia, almeno senza questo qua, senza la compagnia di questo personaggio qua. Certamente. Certo. Certamente. Certo. Vabbè, adesso, ma la perché? Via d'Almirante, magari sì, possiamo anche sorvolare. Sorvoliamo. Piazza Stacchio e via Graziano, sì, Stacchio. Anche, tutta la famiglia diamo. E lì ci mettiamo ad abitare, sì, te. Benissimo. Insieme ai tuoi amici. Fermi là, fermo, fermo, fermo. Arrivederci, addio. Ragazzi, io sono rimasto colpito da venerdì dalla spiegazione del professor Bossi, quello sulle contrazioni pelviche, aia, quello sulla là, che cazzo era, il perineo, eccetera. Ragazzi, è così, che ti devo fare? Cioè, bisogna contrarre ritmi, ma riprenderemo questa discussione, riprenderemo con altri esperti, con lo stesso Bossi, cioè la contrazione del perineo fondamentale. Bossi, non Umberto, lo dico per chi magari si fosse... Qualcuno di voi, ma qualcuno che mi ascolta sicuramente l'ha provato, sì, di iniziare a avere l'acme della risposta sessuale, sembra di raggiungerla, improvvisamente ha le contrazioni pelviche e poi vede che non emette. Sì. Vi è successo? Forse a voi noi no, due, ma qualcuno che ci sta ascoltando sta dicendo sì, caspita, a me è successo. È successo. E dunque? E allora cosa c'è? Una dissociazione, sì, tra momento eiaculatorio e momento, certo, orgasmico. Capito? Questo si stava parlando di chi non viene praticamente, di chi viene e nello stesso tempo non viene. Contrazioni pelviche e poi non emette. In questa cosa qua è importante, fondamentale per un sacco di ragioni, la contrazione del perineo. Lo sai che mi sono esercitato durante il weekend? Mi sono veramente esercitato la contrazione esercitato del perineo. Beh sì, certo, assolutamente. Compiti a casa. Dov'è? Il perineo è quell'area tra scroto e ano. Come si fa a contrarre il perineo? Giù cascasella, unite le mani, che roba è? Aspetta, sto contraendo, professore, sto contraendo. Ma non stai contraendo niente, sì, non è possibile. Stai contraendo, perché se contrai l'ano, sì, contrai il perineo. Ma contrarre, no, vuol dire chiudere l'ano. Scusa, ah, chiudo. Dico, chiudi l'ano. Ecco, sì, sì, contrae, sto contraendo in questo momento. Sto contraendo il perineo. Dimmi, allora, che devo fare? Ma tu immagini il presidente che entra in macchina ora. Aspetta, sto contraendo il perineo. Che succede? Presidente, se lei contrae il perineo 7-8 volte, migliora il suo tono pelvico. No, ma non si può così. Direzione in piedi. Ma non è così. Questo è ottimo. Se non me ne siete accorti, era un consiglio al presidente, neo presidente di Confindustria, a contrarre ogni volta che entra in macchina il perineo. Contrarre il perineo. Secondo me fa anche bene, secondo te Parenzo no? Cioè è un consiglio adesso... che potrebbe seguire. È un consiglio che potrebbe seguire tranquillamente. Non capisco perché ti sei così allarmato. E si tratta di un semplice consiglio anche a lui, come a tutte le persone, no, i papaveri. Insomma, no, no, non è che lui sia un papavero, no, ma insomma, non mi pare. Alle persone potenti in Italia, che sono persone, sì, comuni come tutti noi, hanno il culo, hanno il pisello, hanno il hanno lo scroto, come dice ma, il professor Bossi. Lo sanno. Serve assolutamente, serve soprattutto a persone che sono impegnate nel lavoro, che passano un sacco di tempo, contrarre il perineo continuamente. Dunque dici, l'invito eh? È contrarre, sì, assolutamente. Tu dici, assolutamente. Sostiene Cruciani, io sostengo il professor Bossi. Sostiene Cruciani, no, sostiene il professor Bossi. Ho capito. Aspetta, ho capito. Poi soprattutto perché? Facciamocelo aspetta, spiegare. Aspetta, cosa te aspetta? Lo spiega lui perché, guarda. Allora, contrai lo ritmicamente, 1, 2, 3, 4 ecco, volte. L'hai fatto 2, 3, 4. Ah, bene. Poi? Tutti l'avete fatto, avete aumentato ma il vostro tono pelvico. Io non ho fatto niente. Fatelo spesso, che fa bene. Va bene, contrai il perineo, va bene. Se in quel momento in cui state raggiungendo l'acme della risposta, sì, e vedete che tutto sommato non arriva, ma lei avete già ottenuto il piacere, perché sì, il piacere per molti uomini è dare piacere. Contrai ritmicamente 1, 2, 3, 4 ecco, volte. L'hai fatto 2, 3, 4. Ah, bene. Poi? Tutti l'avete fatto, avete aumentato ma il vostro tono pelvico. Io non ho fatto niente. Fatelo spesso, che fa bene. Va bene, contrai il perineo. Se in quel momento in cui state raggiungendo l'acme della risposta, sì, e vedete che tutto sommato non arriva, ma lei avete già ottenuto il piacere, perché sì, il piacere per molti uomini è dare piacere. Ragazzi, oggi è sabato e mi ascolto in podcast la trasmissione di ieri, di venerdì. Siete fantastici, siete fantastici, continuiamo così. Ah, però una cosa, Giuseppe, ogni tanto vediamo pure qualche pezzo di bella fregna che poi nel frattempo contraiamo il perineo. Agrucia, sto guidando l'autobus su Via Nazionale, sto sul 64. Mentre contraevo il perineo, un momento mi incolo un palo da noce. Mannaggia la puttana, a momenti faccio flop. Aspetta, non è finita qui, perché lui diceva anche minima penetrazione, te lo ricordi, massima estrazione, boss. Cruciani, era da un anno che non scopavo, ho avuto la bella idea di fare la minima penetrazione, massima estrazione, una figura di merda, non scoperò mai più. E allora ademen, caro Parenzo, ademen, siamo passati come nostra abitudine da Via Almirante al Perineo, ciao. La Zanzara è un bel programma, però Cruciani capisce poco e Parenzo non capisce un cazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.